100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Le rivelazioni di Wikileaks sullo spionaggio della CIA continuano a tenere alta l'attenzione non solo negli Stati Uniti, dove l'imbarazzo politico è altissimo, ma anche tra i paesi alleati che, pur sapendo di essere stati sempre spiati, reagiscono con sdegno e irritazione a ogni nuova rivelazione pubblicata dal sito di Assange. Spiare ed essere spiati fa parte da sempre delle regole del gioco, ma mentre in USA, Cina o Russia, classe politica e opinione pubblica considerano lo spionaggio e il controspionaggio come funzioni essenziali delle esigenze di sicurezza, in Europa sembra prevalere la consueta ipocrisia sulla realtà del mondo, scandalizzarsi è la reazione tipica. In realtà basta conoscere bene l'inglese e trascorrere qualche ora sul sito di Wikileaks per accorgersi di una realtà diversa da quella che ci raccontano. Più delle intercettazioni segrete, dei cable e delle mail tra CIA e Washington, ciò che davvero colpisce dei documenti di Wikileaks è il via vai di politici, burocrati, banchieri e soprattutto di esponenti di governo nelle stanze protette delle ambasciate americane, tutti lì per fare rivelazioni su segreti di Stato e relazioni politiche. Centinaia di politici, tra cui una fitta schiera di italiani, figurano infatti tra gli informatori della CIA e dell'ambasciata americana fin dal dopoguerra. Lo scandalo dunque non sono le rivelazioni in se stesse, ma le trascrizioni dei colloqui degli ambasciatori e delle spie con i leader dei grandi partiti, i leader dei governi e soprattutto la disinvoltura con cui vengono rivelati patti segreti per far cadere governi, opinioni e giudizi personali su istituzioni, figure istituzionali, nazionali e sovranazionali. Che dire, dunque, più degli agenti della CIA sono insomma i politici europei a dare il contributo più importante allo spionaggio americano, ad essere spiati a propria insaputa. Insomma, siamo rimasti solo noi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Anche se l'Italia non sembra accorgersene, l'economia europea sembra aver ripreso il passo, un passo tale da fermare, così dice Draghi, la possibilità di eventuali altri stimoli monetari per dare slancio all'economia europea dopo la lunga stagnazione, la crisi economica, la crisi del debito e la crisi finanziaria. Per Draghi la possibilità che la BCE allenti nuovamente il denaro o comunque continui ad acquistare i titoli di Stato per tenere bassi tassi di interesse sta cominciando ad arrivare al termine. Il stop al programma è previsto per fine anno e la possibilità di altri stanziamenti da parte della BCE autorizzati dai tedeschi o comunque dal board è molto molto debole. Il contraccolpo è stato per ora limitato, parliamo dei mercati finanziari, i tassi dei titoli di Stato, soprattutto quelli della zona periferica, si sono mossi tutti quanti al rialzo, i prezzi sono scesi, salvo i titoli a 2 anni per la Spagna e per la Germania. A breve, evidentemente, gli investitori non pensano che da quei 2 paesi possano venire problemi. In realtà il tempo stringe, e stringe soprattutto per tutti. Tra elezioni, incertezze legate a Trump, incertezze soprattutto politiche in Italia, la possibilità delle imprese, delle nostre imprese italiane, di riagganciare la ripresa degli altri è molto, molto precaria. Bisognerà accelerare laddove servono le riforme e soprattutto dare stabilità politica a un paese che ha enorme bisogno di programmazione e di visibilità del suo futuro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.